E prima di concludere, a proposito di caccia vostra, dobbiamo ringraziare, siamo molto lieti di ringraziare Rosaria Marsico, che non ci ha mandato una cassetta, perché si è lasciata impressionare dal fatto che la sua voce audita sul magnetofono gli è sembrata strana. Sapesse come a me sembra la mia, farsi coraggio occorre nell'ascoltare la propria voce, è un dramma. Sì, ascoltare la propria...